è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci, 18.35, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito con Studio Aperto. Cade la neve a Firenze, ma la città è ricoperta solo di viola. Franchi, tutto esaurito per Fiorentina-Bayern, Vargas recupera, giocherà dall'inizio. Back is back, accoglienza da Real Manchester per David Beckham per la prima volta allo Trafford. Aspettiamo, fermi tutti, abbiamo sbagliato canale, TG2. Giallo di Via Poma, si uccide in provincia di Taranto l'ex portiere Pietro Vanacore, coinvolto poi prosciolto nell'omicidio di Simonetta Cesaroni, avrebbe dovuto testimoniare venerdì. Attesa per la decisione dell'ufficio elettorale di Roma sulla lista PDL nel Lazio. Pannella propone di spostare di un mese le elezioni. No di Bersani. Dal TAR Lombardo l'ok alla lista Formigoni. Vandali in azione in una scuola nel Cremonese. Le aule devastate anche con bottiglie incendiarie. Per i danni l'istituto dovrà restare chiuso per tutto l'anno scolastico. Maltempo in tutta Italia, al centro-nord neve anche in pianura. Firenze imbiancata, a rischio Fiorentina-Bayern-Monaco. Pioggia al sud, a Trieste-Bora a 120 km orari. La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Si assiste a una cosa piuttosto curiosa in queste ore. Prima c'erano esponenti del centro-sinistra, diciamo così, Italia dei Valori, alcuni anche del Partito Democratico, intellettuali vari, che gridavano al golpe. Adesso invece esponenti del centrodestra. Incredibile, per motivi assolutamente fantasiosi, se non addirittura folli. Con chi partiamo? Direi Daniela Santanchè. Andiamo con la Santanchè. Mizi formali, un timbrino messo più a destra, più a sinistra, rotondo, no. Quadrato. Di questo stiamo parlando. Orpelli, come li ebbe a definire Presidente Formigoni. Io voglio dire, quando si parla di democrazia la cosa è seria. Togliere il partito che ha preso quasi 10 milioni di voti nell'ultima consultazione, io credo che questo è il golpe. E gli orizzonti perduti non ritornano mai. Avete capito bene, secondo Daniela Santanchè, il golpe che cos'è? Il golpe è quello di escludere una lista semplicemente perché questa lista rappresenta 10 milioni di voti. Questa volta quanto durerà? E allora che cosa le presenta a fare le liste, le firme, una lista diciamo del PDL? Lo decidono per legge che quelli presenti in Parlamento o quelli più grandi, eccetera, non devono presentare le firme, non devono presentare i bolli, non si devono presentare nei tempi previsti, possono presentarsi quando vogliono loro, anche un giorno prima delle elezioni, senza firme, senza bolli e senza arrivare in tempo. Secondo Giorgio Straquadanio, invece, il vero golpe fu... Non capisco cosa c'entri in questo contesto. Il vero golpe fu quello del centrosinistra perché faceva votare i senatori a vita. Ricordate la polemica? Non prendo tante lezioni, mi perdoni, da tutti questi signori che sono qui, di un governo che si è retto per 2 anni sul voto dei senatori a vita che non sono eletti dal popolo e che sono nominati per meriti speciali e che sono o che sono ex presidenti della Repubblica e che dovrebbero astenersi dai voti parlamentari quando questi diventano decisivi. Quello è stato un golpe. Non ritornerà più. Esponenti del Partito dell'Amore in azione, i quali, come avete sentito, parlano di golpe, mentre ieri c'era Di Pietro, De Magistris, i vari Tabucchi, eccetera, oggi sono Santanchè, Straquadanio e, se volete, anche Capezzone. Sentite l'attacco alla democrazia, dove, quale, da parte di chi? Da parte del TAR, forse, non lo so. siamo in una situazione di gravità assoluta che mette a rischio la stessa democrazia. Faremo ricorso, percorreremo tutte le vie legali disponibili, ma è evidente che c'è chi vuole elezioni falsate ed è evidente che c'è chi vuole impedire a milioni di elettori di poter esercitare i loro diritti elettorali. Orizzonti perduti non ritornano. La stagione dell'amore. Beh, su questo punto, Travaglio, che vi propongo adesso, direi che ha ragione. Dicono delle stupidaggini a proposito dei partiti più grandi, partiti più piccoli, le firme, gli orari per presentare le firme. Quando voi sentite dire non si possono escludere interi partiti, non si può escludere il partito di maggioranza relativa, non si possono punire gli elettori per colpa degli errori dei rappresentanti. Cazzata solenne. Si sono sempre puniti gli elettori per gli errori fatti dai rappresentanti dei loro partiti. Perché? Perché è già capitato altre volte che milioni o centinaia di migliaia di persone non abbiano potuto votare per un partito perché aveva presentato carte false o carte fuori tempo massimo. Ed è proprio così, è successo anche ad altri. Ancora Travaglio che dice, beh, insomma, il fatto che fosse dentro quel palazzo milioni, non solo milioni, non c'entra nulla, perché poi se uno si addormenta oppure va in bagno oppure uno cambia le liste, non è proprio la stessa cosa. Sentiamo. La legge dice che devi arrivare entro una certa ora e devi produrre un certo numero di firme autentiche, autenticate e autentiche. Se non lo fai, sei fuori. Ma ero già dentro, ma chi se ne frega se eri già dentro, se sei in aeroporto e ti addormenti, l'aereo parte lo stesso, ma facciamo un decreto interpretativo per stabilire che chi dimostra di essere già in aeroporto fa tornare giù l'aereo? Ma diamo i numeri, era già dentro e chi se ne frega se era già dentro, se era al cesso o era a farsi un panino o era lì che modificava le liste, come pare che sia avvenuto nella eterna guerra tra i finiani e i berlusconiani, sono fatti i suoi. La scadenza è quando tu la depositi la lista, non quando gironzoli nei corridoi o nelle zone limitrofe o nei bagni. Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo. Cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori. E ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità. Gocce di fango su di me. Io non volevo un altro capolista, sai. C'è qualcuno che lo difende, però il nostro Milioni è ancora introvabile. Si chiama Luigi Celori e certo è arrabbiato perché era nella lista del PDL per i regionali, dunque probabilmente non sarà in lista. Dice, guardate che Milioni non c'entra, è un pesce piccolo. E che c'entra, povero Milioni? Io poi non sono abituato a prendermela con i più piccoli, semmai la responsabilità è di chi ha nominato quello che ha nominato Milioni. È poco onorevole prendersela con l'ultima ruota del carro. Il pesce puzza sempre dalla testa. Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo. Cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me. Siamo qui, 18:46, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Omero ci chiama da Bergamo, buonasera. Buonasera, buonasera dottor Cruciani. Niente, il mio intervento riguardava appunto il discorso delle liste, delle liste non accettate. Io trovo veramente difficile credere che un partito guidato da persone così capaci abbia ingenuamente fatto degli errori che si ritengono da parte di tutti assurdi. A pensare male probabilmente si sbaglia, però in questo momento si parla solo di quello, non si parla dei reali problemi che in una campagna elettorale, delle cose che in una campagna elettorale si dovrebbe parlare. Guarda Omero, io non seguo la campagna elettorale regione per regione, penso sì. Che all'interno delle singole regioni in realtà si parli dei problemi concreti, la sanità, eccetera, eccetera. Certo, l'attenzione in questi giorni è tutta presa da questa vicenda delle liste, perché è un po' la fotografia della politica italiana, no? Certo, sicuramente, però anche, ribadisco il discorso che secondo me, a mio parere personale, trovo veramente difficile che Forza Italia o comunque sia il Partito della Libertà abbia fatto un errore così ingenuo, e sarò complottista, ma a me, per usare un termine volgare, puzza parecchio questo, anche perché sono... Quindi il complotto quale sarebbe, mi scusi Omero? Il complotto nel senso, cioè la sua idea qual è, che l'hanno fatta apposta per creare una cortina di fumo per nascondere cosa? Per non parlare dei reali problemi che esistono e ma guardi che quando i politici parlano, quando i politici vogliono parlare di programmi sono bravissimi, perché in realtà dicono delle cose meravigliose, per cui sì, sicuramente questa situazione è semplicemente dannosa per chi ci si è trovato dentro. Romero, grazie. Non lo so. Non Giuseppe lo so. Da Caserta, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Brevemente voglio esprimere, da vecchio elettore del centrodestra, tutto il mio disagio, disappunto, delusione per quello che sta succedendo. Sinceramente c'è poco da dire. C'è una legge, se i miei, diciamo, quelli per cui avrei votato, hanno fatto tardi, hanno sbagliato, si arrangino pure, mi dispiace. 10 milioni di elettori che non sono rappresentati, sinceramente non vale la pena essere rappresentati da questa gente. Ma poi non è vero che 10 milioni di elettori non sono rappresentati, chi l'ha detto? La Santa Anche? Sono molti di meno, sicuramente, sono i numeri che si fanno, so che sono molti di meno in realtà, sono molti, molti, forse neanche la decima parte, però voglio dire, essere rappresentati da direttanti allo sbaraglio, a me, ripeto, vecchio elettore del centrodestra comincia a imbarazzare. Punto. Ho capito, grazie. Alfonso, Genova, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Le dico il mio parere su questi argomenti, in particolare su un aspetto che forse viene un po' sottovalutato, e in particolare sulla questione che ha riguardato Formigoni a Milano, dove non era tanto una questione di presentare o meno le firme, le liste in ritardo, ovvero se mancava o meno qualche bollo tonno o bollo rettangolare, che è lo stesso, ma sul fatto che la stampa ha comunicato che gli accordi tra i partiti sulla composizione delle liste si erano raggiunti proprio qualche giorno prima della consegna delle liste. E forse nemmeno qualche giorno prima in realtà. Esattamente, mentre le firme avevano delle date che erano molto prima della conclusione. Della conclusione. Beh, questo non lo so adesso, questo non lo so. No, ma questo ovviamente io glielo sto dicendo perché ho seguito. Vabbè, allora... che mi interessa. Mi sembra che questo non è una questione meramente di dimenticanza del panino meno, che possono essere cose anche sanabili. Qui c'era veramente una definita volontà di dire: noi raccogliamo le firme, tanto poi come sono composte lo decidiamo con calma. Ora, secondo me, nello spirito della legge che prevede le modalità di raccogliere firme, questo è più grave che arrivare in ritardo di 5 minuti, essere nella stanza, non essere nella stanza. Ma guardi che non c'era un problema di firme nella questione del PDL a Roma, ma non c'era una questione di firme nel PDL a Roma, il problema io parlo di Milano, a Roma era una questione di arrivare in ritardo, non presentarle o meno per quanto riguarda Milano. Oltretutto il Tribunale di Milano ha riammesso la lista di Formigoni. Sì. Perché? Perché ha ritenuto improprio l'autorizzazione che il Tribunale ha concesso ai radicali di verificare. Sì, però Alfonso, adesso non andiamo sul tecnico perché sennò ci annoiamo. Cioè, il punto fondamentale è che il TAR, i ricorsi di Milano sono andati bene per Formigoni a prescindere dal contenuto del decreto. Il TAR del Lazio si è trovato di fronte a un problema. No, ho capito, ma con tutto questo ragionamento tecnico, lei dove vuole arrivare? Non ho capito. Voglio arrivare, è che semplicemente a sottolineare un aspetto che era un aspetto formale del fatto che molte liste se ne sono bellamente infischiate delle regole. Sì, ma questo succede sempre sulla raccolta delle firme, però, e bisognerebbe trovare, come ho letto oggi per esempio da Sergio Romano sul Corriere della Sera, un metodo un po' più semplice, più moderno per presentare le liste, pur certo tenendo conto che ci vuole un filtro. Grazie. Intanto un ascoltatore mi scrive PDL, cioè pasticcio delle liste, non è male, l'acronimo. Grazie da Messina. Salve Cruciani, io volevo esprimere un po' il mio dissenso per una volta con le sue posizioni. E stranamente essere d'accordo con la Santanchè in contemporanea, cioè, che mi sembra una cosa un po' strana, però mi sembra ovvio e è veramente rilevante il fatto che qui veramente venga inficiata la democrazia. E perché? Perché sono molti, moltissimi elettori che non possono dire la propria. Ma ho capito, grazie. Il problema è un altro, sono gli elettori del PDL in provincia di Roma. Qual è il problema? Ma il problema io lo trovo rilevantissimo, perché il primo partito in Italia risulta non presente nella democrazia. Sì, ma la democrazia, mi scusi, la democrazia non è che è fatta solo di grandi partiti, e i grandi partiti sono più importanti dei piccoli partiti. Ci sono delle regole per presentare le liste. Uno arriva in tempo e tutto va come è sempre andato. La questione delle regole, sa perché le dico questo? Perché nel 95 già ci fu un decreto che salvò i radicali. Sì, ma i termini non erano nel scaduti. Nel 2005 ci fu Di Pietro che si presentò con firme false. Cioè, questa questione riguarda tutti. Certo che riguarda tutti. Solo il PDL. Certo che riguarda tutti, però certo. Nessuno evidentemente non molti nel passato hanno fatto ricorso, adesso qualcuno ha fatto ricorso e soprattutto qualcuno non si è presentato materialmente alle 12 quando bisognava presentarsi. Ma io trovo questo irrilevante, visto e considerato che tutti sono incorsi in questo frangente di non essere in regola, irrilevante nei confronti del fatto che addirittura la magistratura si occupi di escludere una lista, la prima lista, nelle due prime regioni italiane, sia Lazio che Lombardia. La Lombardia non esiste, il discorso. Il tesoretto, cioè il tesoretto d'Italia, Lazio e Lombardia. No, però mi scusi, il tesoretto, ma questo è un discorso politico, però, grazie, abbia pazienza. Sì, molto politico. No, ma va bene. Io trovo tutto molto politico. No, ma certo che è tutto molto politico, però ci sono certe cose, insomma i TAR di solito non è che escludono le liste per motivi politici, evidentemente qui c'è un fatto grosso, cioè il fatto che questi signori che devono presentare la lista del PD nel Lazio non sono arrivati in tempo, questo è un fatto, grazie, o no? Io vorrei vedere insomma perché c'era tanta confusione in quel frangente. Vabbè, d'accordo, ci sono tante ricostruzioni, anche qui le abbiamo fatte, però mi sembra che abbastanza accertato che questi qua non sono arrivati in tempo. Io discuto una cosa, Cruciani, sono certa che se si facesse ricorso anche per tutte le altre liste, nessuna lista sarebbe in regola. Quindi discuto il fatto che si possa escludere. Cioè bisogna trovare un'alternativa, bisogna che i partiti per prima cosa abbiano in mente noi elettori, cioè noi veniamo prima di tutto, il nostro diritto di scegliere. Sì, grazie. Lei superiore a tutto. Guardi, lei ha ragione dello stesso discorso che ha fatto il presidente Napolitano, naturalmente molto criticato per esempio da persone come Marco Travaglio, che dicono, e secondo me in questo caso ha ragione, che i diritti degli elettori del PDL in provincia di Roma non sono inferiori ai diritti di altre liste che magari arrivano in ritardo oppure hanno le firme finte, eccetera eccetera. Da questo punto di vista mi dispiace, ma è così, per cui non mi sembra un qualcosa di particolarmente drammatico per cui gridare al golpe o alla mancanza di democrazia, l'assenza del PDL dalla provincia di Roma. Ma che non è sì. L'assenza della Polverini, ripeto ancora per l'ennesima volta e per l'ennesima serata. Sì, sì, io lo so la questione della Polverini, insomma, che può essere presentata. Cioè, ci sono due signori e un partito che non si mette d'accordo sui nomi da mettere in lista, mettiamo questo prima, questo dopo, quell'altro sotto, quell'altro sopra, quell'altro è l'uomo di Alemanno, quell'altro è l'uomo della Saltamartini, quell'altro. Questo è successo poi alla fine. Questa grazie. È un'altra faccenda ulteriore su cui non mi ci metto neanche. Però quello che io voglio sottolineare è che le due regioni più importanti italiane vengono in qualche modo sottratte dalla magistratura. Ma no, di che parliamo? Una regione per una provincia, secondo il suo ragionamento, perché nell'altra regione sono stati fatti dei ricorsi, il TAR, cioè non è che i TAR sono buoni in Lombardia ma sono cattivi nel Lazio. Si basano evidentemente su dei dati di fatto e su delle carte che hanno di fronte o che non hanno addirittura di fronte, come nel caso del Lazio. siamo di nuovo in diretta con la Zanzara alle 19.18. I numeri per chiamarci, numero verde 800 24 00 24, gli altri indirizzi e numeri li sapete, i titoli del TG3. Lista PDL, attesa decisione tribunale, Berlusconi avanti con la campagna elettorale, Pannella rinviamo il voto di un mese, il PD nessun rinvio. Battaglia al Senato sul legittimo impedimento, centinaia di emendamenti dell'opposizione, il governo mette la fiducia. Si è ucciso Pietro Vanacore, coinvolto nel giallo di Via Po, ma accanto al suo corpo trovato un biglietto, 20 anni di sospetti portano al suicidio. Il fratello del Papa chiede scusa per aver picchiato i bambini del coro di Ratisbona, ma nega episodi di pedofilia, il Vaticano collaboriamo. Accordo bipartisan alla Camera, la cassa integrazione si allunga ad 1 anno e mezzo, viaggio al TG3 tra le aziende in crisi del nord-est. Il vento dell'Artico sferza l'Italia, gelo, vento e neve, situazione destinata a peggiorare, a Giampilieri ancora centinaia di sfollati. Oscar per il miglior documentario a The Cove, dove si racconta la mattanza di delfini in Giappone, un affare per la mafia del Sollevante. In tutto questo non si capisce la posizione di Pannella, posizione isolata forse anche tra i radicali, magari non si può dire, ma è così, rinviamo il voto, che significa? È contrario il PD, è contrario anche il PDL, leggo adesso, ipotesi rinvio del voto è un'ipotesi inesistente, così hanno detto alcuni rappresentanti autorevoli del PDL, Sky TG24. Suicida nel Tarantino Pietrino Vanacore, il portiere dello stabile dove fu trovata morta Simonetta Cesaroni. Fu arrestato lui nel 90 per omicidio e scagionato nel 93. Ha lasciato un messaggio, basta sospetti, avrebbe dovuto testimoniare in tribunale venerdì. Continua il caos sulla presentazione delle liste per le elezioni regionali, si attende la decisione del Tribunale di Roma sulla lista del PDL. Per il Lazio la maggioranza pensa al rinvio, Pannella è d'accordo ma Bersani frena, basta pasticci. Calcio Champions, è il momento della verità per la Fiorentina che per arrivare ai quarti di finale deve battere in casa il Bayern, almeno per 1-0, si parte dall'1-2 dell'andata. Impazzimento della politica intorno alla questione delle liste. E allora Brunetta, partiamo con lui, il quale dice: se la lista del mio avversario a Venezia non fosse stata ammessa, io avrei fatto di tutto per farla competere. Sentiamo. Fosse successo a Venezia e se il mio antagonista avesse sbagliato la presentazione della lista, io avrei chiesto a viva voce che la sua lista fosse riammessa. Tutti pazzi per le liste, Di Pietro ormai ha aggiunto un'altra cosa, il golpista, il governo fascista, piduista, eccetera, eccetera, eccolo ancora. Tutti insieme, partiti, movimenti, società civile, ci riuniamo a Piazza del Popolo e poi, fino alle prossime elezioni regionali e politiche, il nostro impegno è rimandare a casa questo governo golpista, fascista, razzista, xenofobo, che cambia le regole in gioco a uso e consumo proprio. Gianluca Orlando, sempre Italia dei Valori, ieri sera a Tele Lombardia, il golpe del terzo millennio. Ma noi siamo convinti che... Ma lei pensa che oggi il golpe si fa come si faceva nel secolo passato? Lei pensa che la mortificazione della dittatura, che viene dalla dittatura, si faccia in un paese europeo del terzo millennio con la camicia nera e il saluto romano di Benito Mussolini? Ma certamente no. Ragazzi, siamo nel terzo millennio, siamo in Europa. La mortificazione delle regole è dittatura. Ma dicevamo, certo ci sono ancora quelli dell'Italia dei Valori che parlano di golpe eccetera eccetera, ma sono oggi soprattutto quelli del centrodestra, il golpe all'incontrario, cioè il golpe sarebbe quello di non far partecipare alla lista del PDL a Roma, piuttosto bizzarro, Santanché. Vizi formali, un timbrino messo più a destra, più a sinistra, rotondo, no. Quadrato, di questo stiamo parlando. Orpelli, come li ebbe a definire il Presidente Formigoni. Io voglio dire, quando si parla di democrazia la cosa è seria, togliere il partito che ha preso quasi 10 milioni di voti nell'ultima consultazione, io credo che questo è il golpe. Un altro golpe, secondo Straquadanio, sarebbe quello di aver fatto votare nel 2006, tra il 2006 e il 2008, cosa c'entra con la questione della lista, non si capisce, di aver fatto votare i senatori a vita. Non prendo tante lezioni, mi perdoni, da tutti questi signori che sono qui, di un governo che si è retto per 2 anni sul voto dei senatori a vita che non sono eletti dal popolo e che sono nominati per meriti speciali e che sono o che sono ex presidenti della Repubblica e che dovrebbero astenersi dai voti parlamentari quando questi diventano decisivi. Quello è stato un golpe. Va bene, 800 24 00 24. Adesso vi faccio ascoltare un Marco Travaglio che dice: in fondo la spiegazione che c'è dietro la firma di Napolitano è che è un vecchio comunista. A ridargli con la piena partecipazione dei principali contendenti, come se i contendenti alle elezioni potessero essere divisi fra quelli principali che hanno diritto di violare la legge e quelli secondari che invece devono rispettare le leggi. Ma qui siamo di fronte a una versione, si capisce perché viene da un ex dirigente comunista questa concezione dello Stato. Ancora Travaglio sul Napolitano comunista. C'è il primato del partito o del partito grosso rispetto alle regole. Ma qui c'è una concezione che non ha niente a che fare con la democrazia liberale e con lo Stato di diritto. Si capisce benissimo che venga da un comunista evidentemente irredimibile. Irredimibile, comunista irredimibile. E curiosamente ogni tanto sono espressioni usate dallo stesso Berlusconi nei confronti di Napolitano, perché naturalmente per il centrodestra c'è un Napolitano buono quando fa magari il decreto e un Napolitano cattivo in altre occasioni. Presidente della Repubblica è stato eletto da una maggioranza che non è più maggioranza nel paese, una maggioranza di sinistra, ha le radici totali e la sua storia le dimostrarlo di sinistra. Credo che anche l'ultimo atto di nomina di un giudice della Corte dimostri da che parte sta. E ancora un Berlusconi a Porta in cui dice si sa da dove viene Napolitano. Che c'entra il Presidente della Repubblica con tutto questo? Il Presidente della Repubblica aveva garantito con la sua firma che questa legge sarebbe stata approvata anche nei comportamenti successivi e quindi, dato la sua notoria influenza sui giudici di sinistra e sul giudice che ha nominato lui, bastava che il capo dello Stato intervenisse con la sua nota. Va bene, 19:26, 800 24 00 24. Anselmo da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, io Dica. La chiamavo perché giusto per cambiare un po' il discorso sempre delle liste nelle ultime settimane. Lei ha ragione, anche se capisco che dobbiamo uscirne prima o poi. Io ero qui sul treno, siccome sono pendolare, abito a Milano e lavoro fuori Milano, e stavo leggendo sul telefonino l'articolo di Moretti nel quale diceva: questi pendolari tanto si lamenterebbero in ogni caso. Io da 10 anni che faccio il pendolare e le condizioni dei treni, soprattutto negli ultimi anni, sono inaccettabili. Io ho la fortuna di andare in controcorrente, quindi riesco a trovare un posto, non diciamo pulito, ma perlomeno non in condizioni pietose, però è veramente una condizione scandalosa. Sentirsi leggere questi articoli veramente fa male, perché io sono qua in un treno dove una carrozza è fredda, fuori sta nevicando, c'è il capotreno che è una persona sola, è dovuto correre indietro per attaccare il biglietto porta guasta, quindi delle condizioni pietose. Sentire dire che tanto ci lamenteremo in ogni caso mi ha fatto male, quindi la prima cosa, stavo ascoltando la vostra trasmissione, ho detto, siccome non credo di essere l'unico, perché in questi ultimi anni le situazioni sono sempre peggiori, tranne l'alta velocità, poi chiamiamola così, volevo solo rendere partecipe tutti di questa situazione che se poi dalle alte cariche di Trenitalia continuano a dire sì, che è un intervento di Moretti questa mattina in una trasmissione di Canale 5, Mattino 5. Per i pendolari le proteste ci saranno sempre, perché nei giorni feriali, nelle 2 ore di punta, l'affollamento è tale per cui avere posti e treni per tutti è difficile. Non è un problema solo italiano ma mondiale. Dunque i pendolari come lei in realtà protesteranno sempre, non ci saranno mai condizioni ideali, dice Moretti. È chiaro, infatti la gente non pretende le condizioni ideali, però tra questo e le condizioni attuali delle ferrovie credo che ce ne passi parecchio, perché ad esempio si parla di sicurezza sui treni, la sera mi capita di vedere che i capotreni scendono dal treno per salire dal locomotore, quindi rimangono tutte le carrozze negli orari serali senza nessuna persona di riferimento, quindi anche lì la sicurezza. Mi è capitato alle 5 di sera, il capotreno stava cercando la polizia. Vabbè, adesso lasciamo perdere la sicurezza. Sono eccetera. Tantissime, mi dilungherei troppo, però... Secondo lei è infelice la frase di Moretti, per i pendolari le proteste ci saranno sempre, perché nei giorni feriali, nelle 2 ore di punta, l'affollamento è tale per cui avere posti e treni per tutti è difficile. Però è un dato di fatto, però. Quello lì è corretto, però sembra che la protesta sia solo quella di trovare il posto sul treno e non quella di trovare dei treni in condizioni veramente pietose. Ho capito. Senza contare ritardi, e qua farei un elenco lunghissimo che non c'è tempo di fare. Grazie, Borsa. Grazie a lei, salve. Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo. Cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità. Gocce di fango su di me, io non volevo un altro capolista, sai, non mi crederai mai. Squilla, ma è occupato. Gocce di fango su di me e sul panino. Sempre il numero di Alfredo Milioni. Amarezza, riproviamo. Fiduciosi, molto fiduciosi. Il ricorso al Consiglio di Stato. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Salve, cercavo Alfredo Milioni. E non c'è, chi è? Sempre Radio 24. Salve, sono Cruciani. Sì, e non c'è. No. Niente. No. Quando lo possiamo trovare? Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo. Bene, 800 24 00 24, è sempre la segretaria di Alfredo Milioni che ci risponde gentilmente al cellulare in diretta e poi dice arrivederci e chiude il telefono. Va così. Che sei rimasta senza lista e non vedi. Vittorio da Roma, buonasera. Era dottor Cruciani, io dica. Volevo farle una domanda e se possibile una riflessione. È da tempo che mi chiedo se sia corretto per un cittadino che paga il canone RAI, faccio soltanto una precisazione, sono un elettore del centrodestra ma equilibrato e di quelli che condanna anche il pressapochismo che avviene oggi nel Partito delle Libertà. Però mi sono sempre chiesto come mai ogni qualvolta si vedono trasmissioni come Anno Zero, poco fa sentivo quello che lei ha dato in onda di Travaglio, o altre trasmissioni sempre appartenenti ad un'area di centro-sinistra, e che un servizio pubblico non si preoccupi, ad esempio faccio una trasmissione su tutte come Anno Zero, di fare una sera, una sola, in anni di trasmissione, una puntata per chiarire tutto quello che si è letto. Vittorio, non ho capito, di che sta parlando lei? Io adesso sto facendo una domanda relativamente al fatto del perché si parla d'Anno Zero sempre. Ma chi se ne frega di cosa si parla d'Anno Zero? Tra l'altro non è manco in onda adesso, perché lei vuole parlare di cosa si parla d'Anno Zero? No, volevo fare una domanda di questo tipo. Mi dica, non ho capito la domanda, lei sta parlando di Anno Zero, possiamo intavolare ma non lo so, lo chiedo a Santoro, perché non si parla mai, mica faccio la scaletta io di Anno Zero, abbia pazienza. No, e poi la domanda che volevo farle era anche quella relativa al legittimo impedimento, e volevo chiederle come mai il legittimo impedimento, quando fu proposto durante il governo Prodi, ebbe dei consensi anche a sinistra, ed oggi invece si parla semplicemente di legge ad persona. No, non lo so, non mi sembra che sia stato proposto al centro-sinistra durante il governo Prodi, però posso sbagliarmi. Non mi sembra che sia una legge proposta al centro-sinistra, forse lei si sbaglia con il processo breve, su cui però anche lì ci sono diverse versioni, su quella che era la versione, scusate il gioco di parole, del centrosinistra. Grazie Vittorio, non capisco perché lei mi vuole trascinare su una discussione generale su Anno Zero, che peraltro non è in onda in questo periodo. Mauro, provincia di Fermo. Buonasera. Dica. Dottor Cruciani, buonasera. Beh, parte, io seguo da alcuni giorni questa vicenda di queste liste, rientrano o non rientrano. Beh, io qui in provincia di Fermo ci sono due comuni. Due perché Fermo fa provincia? Sì, Fermo è una di quelle province. Ah, le nuove province purtroppo, sì. Purtroppo, sì. Andrebbero cancellate tutte queste province in generale, in particolare quella di Fermo. Senta, purtroppo dove c'erano due liste... Lei non è d'accordo? Ma io sono d'accordo se partissimo dalle province più grandi, che perlomeno io non ricordo nemmeno i presidenti delle province di Roma, Milano, Napoli. Figuriamoci se io ricordo quella di Fermo, il presidente della provincia di Fermo. Sicuramente, quella di Fermo è nata adesso, magari qualcuno se lo ricorda, il primo presidente. E chi è il presidente della provincia di Fermo? È l'avvocato Cesetti. L'avvocato? Cesetti Fabrizio. Fabrizio Cesetti. Auguri. Dei Verdi, mi sembra. Dei Verdi, no, non credo. Sì, è di centrosinistra? A sinistra, non del PD. Non del PD. Senta, vabbè, dunque lei che ci vuole dire sulle firme? Ma le firme liste? Non sono le firme, che qui sono state cancellate due liste perché non erano regolari, quindi i comuni sono rimasti... Ma quando, adesso? Adesso, quindi sì. Sono rimasti con una lista unica. Quindi si va alle elezioni con una lista unica. Dunque lei dice non è così scandaloso il fatto che si vada alle elezioni magari con qualche partito che manca. Sono un elettore di centrodestra moderato, però se il problema è all'interno del PDL, perché tanto il problema è all'interno del PDL, non di Milione che va a mangiare il panino o altro, perché sa. Lei siamo dice, così piccoli che andiamo presto a consegnare la documentazione all'ufficio elettorale, eccetera, figuriamoci i partiti a un certo livello, a livello nazionale. Cioè, o si cambia radicalmente, secondo me, che i partiti a livello nazionale hanno diritto alle elezioni senza firme, senza perché sono già rappresentano già una grande parte del popolo, della cittadinanza, allora sì. Ma altrimenti le regole, penso che quella di Labedona, quella di Mondappone o di Mondeleone sia uguale a quella nazionale. Senta, no, lei ha ragione, Mauro. Volevo chiedere, ma che liste sono state escluse? In quali paesi? Mi dica un po'. Sono civiche, una a Mondeleone e una... Qui esistono liste civiche, sono piccoli paesini, non sono liste... No, però... no, mi dica, Mondeleone, provincia di Fermo, naturalmente. Mondeleone e Montottone. Montottone, Monteleone e Montottone. In questi due paesi c'è una lista unica, perché l'altra è stata esclusa. Una lista unica che potrà essere eletta se si supererà lo sbarramento del 50% degli elettori, cioè la regola. Se si supererà. Vabbè, sì, certo. 50%. Però in questi due paesi sostanzialmente devono esserci due liste. Quante liste devono esserci in teoria? Due, ma sono piccoli, quindi due liste nascono sempre. E l'altra non è stata ammessa per mancanza di firme. Una non è stata ammessa, mi sembra, per mancanza di un consigliere, cioè invece di 9 ne hanno segnalati 8, ne dovevano segnare 9, sì. 8 più 1, sì. Il minimo, invece ne hanno portato. E l'altra invece? L'altra adesso il motivo preciso non lo ricordo, però ho letto che era stata, anche da quest'altra parte, era stata... scartata la lista perché non presentata correttamente, quindi sono due paesi che si trovano... Quanti abitanti hanno questi paesi? Ma sui 600-800 abitanti, cioè sono piccoli, però il piccolo... No, ma è certo. Va bene, grazie. Monteleone mi sembra che sia il paese di Katia Belillo, o sbaglio, di un ex ministro dei comunisti, o no? Non lo so. Va bene, grazie. Giovanni da Novara, buonasera. Buonasera. Dica. La ringrazio. Ma guardi, entro subito in argomento. Io sono... da elettore storico del centrodestra, è ormai arrivato alla soglia dei 50 anni, ho uno sconcerto, uno stupore per quello che sta accadendo, e dato che penso di essere impazzito, credo che non andrò a votare, perché un elettore del centrodestra, finché è d'accordo e sottoscrive ogni parola di quello che sta dicendo Bersani in questi giorni, magari ci sta anche, ma che io sottoscriva ogni parola che ha detto Travaglio, credo di essere impazzito, e credo che il centrodestra stia sottovalutando il casino che ha combinato, perché molti elettori di centrodestra, di fronte a una roba di questo genere che non sta né in cielo né in terra, come minimo non vanno a votare per paura di votare Di Pietro, perché se vado a votare ho paura che stavolta il voto vada da un'altra parte. Per Giovanni, no, ma non ci andrò mai. Devo dire quello che sta succedendo. Devo dire, il paese è buono, scusi un attimo, perché... Giovanni, devo dire che il suo sentimento, cioè la sua sensazione è abbastanza condivisa tra gli elettori del centrodestra che ci chiamano, c'è questo sconcerto rispetto a quello che è accaduto e soprattutto l'idea che ci possa essere una perdita elettorale per quello che è successo. Lei che dice? Ci sarà perché io non vado a votare e credo di non essere solo, non ci vado perché mentre il paese sta morendo con tutte le difficoltà che ha, in Parlamento si discute del legittimo impedimento, si fa un decreto per riammettere una lista che se hanno sbagliato sta fuori, qual è il problema? Stiano fuori, la prossima volta imparano, non ci mandano uno che non parla neanche italiano a presentare la lista, magari ci riescono la prossima volta. Però le dico da elettore di centrodestra, mi spiace ma questa volta non ci vado perché è inammissibile e poi non è possibile dare in mano il paese a gente che sempre di più non è capace neanche di andare a presentare una lista. Poi se passiamo dal fatto che Fini ormai è diventato comunista, cioè si immagini gli elettori di centrodestra che sconcerto hanno. Vabbè, quello è un altro discorso, Giovanni, non è diventato comunista Fini in ogni caso. Magari lo era già da prima, chi lo sa. va bene, grazie. Umberto da Brescia, buonasera. Sì, buonasera. Anch'io sono un elettore potenzialmente di centrodestra e sono completamente d'accordo sull'intervento appunto che ha appena terminato, perché se come elettore io do la mia fiducia, voglio sapere a chi do la fiducia e se devo dare la fiducia a degli incapaci o degli incompetenti, dipende a quale livello, che non sono in grado di presentarsi perché vanno a mangiare o quello che fanno, vabbè, se invece la cosa parte dall'alto dove non riescono a mettersi d'accordo prima e così via, quindi ancora meglio voglio sapere con chi, a chi avrei dato il mio voto e se poi devo vivere la frustrazione che forse avrei dato il mio voto a degli incapaci, forse è meglio che lo sappia prima. E ho quindi capito. Mi sta benissimo. D'altro canto vorrei anche sapere se ma insomma lei alla fine, Umberto, vota sì. Brescia, dunque vota Lombardia sostanzialmente, andrà a votare oppure è talmente deluso? Sì, ma sono cittadino italiano, quindi voglio essere comunque all'interno. No, ma sì, ma al di là della Lombardia sto dicendo, ma è talmente deluso che potrebbe non votare, diciamo, centrodestra oppure no? Ma in Lombardia no, penso che comunque andrò a votare sicuramente perché il mio diritto lo utilizzo. Allora non è poi così deluso, insomma. Ma dipende. D'altro canto c'è anche da dire che se le regole fino a poco fa tutti d'accordo che comunque se si chiudeva a mezzogiorno ma in realtà se ti presentavi poi comunque andava bene anche all'una e quando allora c'è stata l'occasione hanno ristretto le regole, allora c'è qualcosa che vengono utilizzate le regole in maniera impropria. A questo punto dico, se le regole vengono utilizzate in maniera impropria non è sicuramente adesso cambiando le regole, me ne assumo la responsabilità, cambierò le regole dopo, però intanto subisco le conseguenze perché devo assumermi la responsabilità. Ma io la penso come lei, però la politica è evidentemente qualcosa di diverso e noi non abbiamo responsabilità politiche, dunque evidentemente i dirigenti del PDL hanno scelto la strada che poi si è rivelata fino adesso perdente, che è quella del decreto. Gocce di fango su di me che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino. Siamo arrivati qui, sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori. E ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità. Gocce di fango su di me. Cosa è successo in quei corridoi il 27 di febbraio? Sabato 27 febbraio, ancora resta un mistero e andiamo a cercare di capirne di più con Angelo Fredda. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Militante di Sinistra e Libertà, posso dire così, militante. Sinistra, Ecologia e Libertà. Sinistra, Ecologia e Libertà, ex deputato di DS. Sì. Allora Fredda, lei era presente là, sì, quel sabato, a che titolo? Accompagnavo la mia presentatrice di lista. Era il secondo della sua presenza? No, scherzo, io accompagnavo. Accompagnava la presentatrice della lista. Sì, certamente. Voi avete fatto tutto in ordine, dei tempi previsti, a che ora eravate dentro quell'ufficio? Attorno alle 10. Alle 10, dunque con largo anticipo, diciamo, sì, 2 ore. Non c'erano problemi di nomi sulla lista, era quella la lista? No. Quando era stata conclusa, diciamo, chiusa la lista? Conclusa. Nei giorni precedenti? Nei giorni precedenti, poi si sono fatte le necessarie documentazioni. Allora, Milioni, quando è arrivato? È arrivato arrivato attorno alle 11.40, poi si è allontanato perché si erano accorti di aver dimenticato i simboli lucidi che vanno allegati, anche se non era un fatto, diciamo, fondamentale, perché si possono portare anche entro 12 ore dalla presentazione della lista. Sì. Poi il problema è venuto dopo, nel momento in cui si sono messi a maneggiare la documentazione fondamentale, cioè l'atto fondamentale e le singole accettazioni dei candidati. E maneggiare che significa? Cioè si sono messi a scartabellare le cose? Si sono messi a vedere che cosa legittima si può vedere, si può sistemare le carte, non è un fatto illegale. Però, e allora, cosa è successo? A un certo punto uno dei due presentatori è partito, è uscito, lui l'ha inseguito e molto probabilmente le voci dicono che c'era un contrasto sulle ultime decisioni di candidatura. Sì. Lei si è accorto? Lei si è accorto di questo contrasto? Beh, se ne sono andati. Non è una grande motivazione dire mia figlia stava male e poi invece cambiare e dire sono andato a mangiare un panino e poi perché non. Ma perché qualcuno ha detto anche che la figlia stava male? Chi l'ha detto? Lui, Milioni. Ah, all'inizio ha detto pure che la figlia stava male. Vabbè, sono tornati. Il problema vero è che loro non c'erano quando l'addetto dell'ufficio elettorale ha chiesto quali liste erano presenti a mezzogiorno e poi hanno deciso assieme alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia di chiudere il corridoio e quindi di farli rispettare la legge. Ho capito, cioè è stata creata a un certo punto un'area protetta. Certo, perché entro mezzogiorno le liste si presentano. Ho capito, ma se uno è dentro, mezzogiorno bisogna stare lì fisicamente e con gli atti. Ma se uno è dentro il palazzo, se uno è già dentro il palazzo, qual è la differenza? Ma la differenza è che dentro il palazzo con quale documentazione? Una parte? Questo è il problema. Cioè loro erano fuori dall'area protetta che è stata creata a un certo punto e comunque non c'era nessuna documentazione dentro quest'area protetta. Voglio dire, mancava la documentazione, il problema. Ma lei è uno di quelli che la documentazione. Certo, lei è uno di quelli che si è steso ai piedi dei carabinieri, no? Non ho la cultura dei radicali, diciamo. Un grande partito, ma ho certamente chiesto alle forze dell'ordine, ai magistrati, di far rispettare la legge, ma non ce n'era bisogno. Ma questi quando sono rientrati? Il capitano dei carabinieri, 20 minuti prima della chiusura a mezzogiorno, aveva avvertito i carabinieri stessi di disporsi a un certo punto del corridoio per chiudere il passaggio a mezzogiorno. Dunque, cose di violenza non ci sono state, come è stato detto. No. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere, ma a un certo punto sono tornati Milioni e l'altro del PDL, no? Sono tornati, ma sono a che ora? Dopo mezzogiorno e mezzo, un quarto all'una. E che è successo a quel punto? A quel punto non sono stati fatti passare dai carabinieri e poi dai magistrati che sono stati chiamati perché c'era una polemica verbale, e quindi sono intervenuti i magistrati e i magistrati hanno detto che non era più possibile presentare la lista perché era scaduto il termine. C'erano ancora 4 o 5 liste che dovevano essere stavano in fila e ovviamente a mezzogiorno stavano ancora in fila. Quelle liste sono state ammesse alla presentazione perché a mezzogiorno erano in fila ancora. Stavano lì a mezzogiorno. Senta Milioni, ormai c'ho la fissazione di Milioni che lo sto cercando come un pazzo, è sparito questo Milioni. Lo credo bene. Perché lei dice lo credo bene? Il guaio l'ha fatto. Può darsi pure che però lui non c'entri niente, telefonate, cose. Responsabilità che non sono sue. Può darsi. Il guaio è stato commesso. Materialmente è stato commesso, certo. Senta, ma Milioni sostiene di aver lasciato nella zona protetta uno scatolone di firme, insomma qualcosa, ma è vera questa cosa o no? Ma lì uno scatolone c'era, ma vai a capire cosa c'era dentro. Non è che basta lasciare uno scatolone. Lui non è che ha lasciato questo scatolone, ammesso che lì c'erano le firme, perché nessuno ha visto il contenuto dello scatolone. Lui non l'ha affidato all'ufficio che accoglieva le liste. L'ha lasciato per terra in un corridoio. È chiaro, voglio dire, dopodiché credo se lo siano ripreso alle 5 del pomeriggio, poi successivamente alle 19.30 hanno consegnato, loro dicono, quello scatolone e la certificazione della lista ai carabinieri alle 19.30, ma in tutto questo passaggio la lista è rimasta la stessa, la documentazione è rimasta la stessa. Beh, insomma, ma la legge vale per tutti, per i piccoli e i grandi partiti. Questo il decreto del governo, sì, copre la Lombardia e il Lazio, ma quante altre cose sono successe nelle altre regioni? A parte, come lei sa, come lei sa, Fredda, la Lombardia non è stata coperta da questo decreto e adesso manco, e adesso non manco non il Lazio. È stata coperta perché il TAR ha deciso. Certo. E adesso manco il Lazio. Vabbè, insomma, grazie di questa sua ricostruzione, caro Fredda, la ringrazio. Buonasera. Prego. Dove andiamo? Pescara, Antonio. Sì, buonasera, dottor Cruciani, e anche ai suoi ospiti e ascoltatori. Guardi, io devo ringraziarla perché, come sempre, ha dipanato tutta la questione in maniera egregia. Premetto che vorrei andare a detrimento e non aggiungere altre polemiche, però volevo fare questa analisi. Il penultimo ascoltatore che mi ha preceduto è questo, da ultimo, questo politico del centro-sinistra, mi hanno fatto capire meglio perché un grande padre della patria, politica si intende, di 40 anni di governi, disse che a pensar male si fa peccato ma si azzecca sempre. E l'analisi è questa. A che proposito? Sì, lo dico subito. Qui si è capita una cosa di tante affermazioni, che comunque c'è stato un problema all'interno del PDL, l'ha detto anche le persone che mi hanno preceduto. Cos'è questo suono fastidioso sul suo cellulare, Antonio? Qualcuno prego, è la batteria, mi scusi. Perché la batteria, vabbè, sopporteremo, dica. Sì, faccio subito. Quindi volevo dire questo, presupponendo che nel PDL c'è stata questa, diciamo, mezza diatriba, questa dicotomia di vedute tra una parte e l'altra, faccio questa analisi. Quando a sinistra sono successe queste cose, la sinistra sì, ha punito il centro-sinistra, ma sa, a sinistra si dice sempre che ci sono gli idealisti, i misantropi, eccetera, eccetera. Questa volta una cosa che non ha calcolato il centro-destra, anche facendo questo decreto, sì, credo che più chi vota a destra dovrà dirlo, non hanno calcolato appunto che chi delude il centrodestra, e guardi che il centrodestra tiene per l'ordine, per la, comunque per il fare, per la fattività. Sì, per sì, non per i pasticci. Non per i pasticci, se lei sbagliasse un intervento nella radio, io credo che lei gli tolga la direzione del programma, perché se sbaglia l'azienda guarda gli utili, poi specialmente sono 24 ore, no, certo, i numeri se ne intende. Questo vuol dire. Che succede? Che a livello politico adesso... Lei dice ci sono ripercussioni sugli elettori di centrodestra soprattutto. Certo, certo, ma poi come le dicevo, da come ho sentito molti amici miei di centrodestra, addirittura come quell'ascoltatore che ha detto non vado a votare probabilmente, io non credo alle onde emozionali preelettorali, no, io certo, guardo il giorno dell'urna, sono convinto che se io le dicessi che non vado a votare, domenica mattina andrò a votare, è così, tanto lo sa meglio di me, anche certo, tu, certo, adulto di me. Però l'analisi la faccio dagli umori che sento, e il penultimo intervento me l'ha confermato. Ho capito. Passare dal PDL a Di Pietro è come passare dalla donna al maschio, di mezzo c'è il trans, si dice, il transito. Questa volta gli elettori non faranno il transito, o non vanno a votare, e se vanno a votare fanno danni per il PDL, ovviamente. Io non lo auguro, per l'amor di Dio, perché io non auguro il male di nessuno. No, ma ho capito, Antonio, grazie. Intanto Penati, che è il candidato avversario principale di Formigoni in Lombardia, dice che senza il decreto non ci sarebbe stato Formigoni candidato. Dunque, altre interpretazioni su interpretazioni di quello che è accaduto nei giorni scorsi. Eccoci qui, TG5. Suicida in mare a Taranto. Pietrino Vanacore, portiere del palazzo di Via Poma dove fu uccisa Simonetta Cesaroni, ha lasciato due messaggi. 20 anni di sospetti ti portano al suicidio. Vanacore, arrestato e poi prosciolto, avrebbe dovuto testimoniare venerdì al processo contro l'ex fidanzato di Simonetta per il legale di Raniero Busco, non uccise ma sapeva qualcosa. Sì, definitivo alla lista Formigoni in Lombardia. Nel Lazio, attesa la Corte d'Appello sulla lista del PDL. Dalle opposizioni, duro ostruzionismo contro il legittimo impedimento. Il governo pone la fiducia. Ancora gelo e neve, i disagi più pesanti in Toscana ed Emilia-Romagna. Vento forte e temporali al sud e la situazione peggiorerà nelle prossime ore. È innocente e lo amo, parla Donatella Papi, che domani sposerà in carcere Angelo Izzo, all'ergastolo per il delitto del circeo e altri due omicidi, ma le nozze sono a rischio, mancherebbe un testimone. In studio al TG5 Mauro Marin, il 29enne salumiere di Castelfranco Veneto, vincitore del Grande Fratello 10, l'edizione dei record. Bene, TG1. Suicida Pietrino Vanacore, portiere di Via Poma, venerdì doveva deporre nel processo all'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni. Regionali, attesa decisione sulla lista PDL a Roma, governo pone fiducia sul legittimo impedimento, protestano le opposizioni. Torna il freddo, neve e pioggia da nord a sud, temperature sotto lo zero in molte regioni, allerta meteo fino a giovedì. Pedofilia non è solo nella Chiesa, lo dice il portavoce Vaticano Padre Lombardi, sbagliato concentrare accuse su di noi. Parla a tigri e leoni, li addestra e cura in casa e nel weekend apre il giardino ai visitatori. Alice spopola il cinema e nei negozi, abiti, gioielli, gadget ispirati al film, ruba anche i libri di Lewis Carroll. Ed ecco il telefonino indistruttibile, arriva il cellulare che non teme acqua, colpi proibiti e temperature. Va bene, polari. Sentiamo anche la 7. Si infittisce il mistero di Via Poma, si è tolto la vita Pietrino Vanacore, il portiere dello stabile dove fu uccisa Simonetta Cesaroni. L'uomo ha lasciato scritto 20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio. Avrebbe dovuto deporre il 12 marzo nel processo contro l'ex fidanzato della giovane. Attesa a breve la decisione dell'ufficio elettorale del Tribunale di Roma sulla riammissione della lista del PDL nel Lazio. I radicali propongono di rinviare di un mese le elezioni, ma Bersani è contrario. Andiamo al voto e vinciamo, vertice del PDL per rilanciare la campagna elettorale. Legittimo impedimento al Senato, il governo pone la fiducia. L'inverno insiste, nuova ondata di maltempo su tutta la penisola, forti temporali al centro-sud dove torna il pericolo frane e alluvioni, nevicate sulle regioni del centro-nord, miglioramenti previsti solo a partire da giovedì. Va bene, la frase di Moretti contestata dall'ascoltatore di prima, Mattino 5, sentitelo. Tra i pendolari delle proteste credo ci saranno sempre, perché soprattutto nei giorni feriali, nelle ore di punta come queste in cui stiamo parlando, l'affollamento è tale per cui la difficoltà di poter avere treni e posti per tutti è veramente difficile, ma non solamente in Italia, è un problema che è mondiale. Considerate che è difficile pensare di avere una flotta dimensionata solo sulle due ore di punta che ci sta in un giorno, per il resto della giornata non sarebbe utilizzata. Questa è la frase di Moretti, non mi pare una frase così scandaloso per cui aprire polemiche. Ha fatto un ragionamento sull'affollamento, non è che i problemi dei pendolari siano solo l'affollamento, poi comunque bisogna poi sempre inserire in un contesto. 800 24 00 24, dove andiamo? Giuseppe, provincia di Venezia, buonasera. Buonasera a lei Crociani, l'ultima volta ci siamo sentiti con un progetto ambizioso che faceva riferimento al ponte di Messina sullo stretto, sì. Si ricorda? No, non ricordo, però comunque va bene, dica. Ce lo ricordiamo. Ma parliamo di un progetto ambizioso che è quello di portare uno scatolone di liste, non so che, in un ufficio elettorale, e a causa di un panino con la mortadella questo progetto sfuma. Io ritengo che le due cose abbiano in comune la mancanza di passione e di rispetto verso la base elettorale. Io sono ritengo insomma di essere un elettore riequilibrato, e per il mio come dire, punto di vista ho sempre votato centro-centrodestra, ma questa volta sono in forte imbarazzo perché non trovo nel mio riferimento, nei miei riferimenti, quella passione che dovrebbe essere subordinata alla parola stessa che si chiama politica. Insomma, qui abbiamo dimenticato la politica, l'interesse comune, e ci stiamo, e i nostri come dire eletti si stanno dedicando al come dire al potere, al personale, al potere personale, agli interessi personali. Mi sembra che lei stia un po' allargando il discorso, però, Giuseppe. Sì, no, ma lo restringo subito. Cioè, nel senso, nella questione di milioni, probabilmente la colpa non è manco di milioni, ma delle incertezze riguardo alla lista del PDL. Esatto. Le liste bisogna chiuderle prima, basta con queste discussioni fino all'ultimo secondo, con le varie fazioni che, per carità, la politica è fatta anche così, è fatta anche di compromessi, di divisione di posti all'interno delle liste, tra le correnti, tra quello che è amico di quello e di quell'altro, sono tutte cose normali, certamente non ci scandalizziamo. Però, insomma, ci sono dei termini, a mezzanotte del giorno prima si può chiudere sta cosa in modo che uno il giorno dopo arrivi in maniera più tranquilla alla presentazione delle liste, o no? O si chiede troppo? Direi di sì, sono assolutamente d'accordo. Grazie. Giuseppe da Milano. Dottor Cruciani, io volevo anch'io esprimere la mia opinione riguardo al discorso delle liste, della missione o meno. Si parla in continuazione di sostanza piuttosto che di forma. Allora io da comune cittadino le parlo come colui che ha 17 anni che aspetta una sentenza della quale ha ragione sotto forma di sostanza e di forma, no? Però cosa succede? Che ai partiti invece la sostanza e la forma prende due, diciamo così, opinioni completamente differenti. Voglio dire, se gli avvocati vincono le cause per vizi di forma, per più che di sostanza, sì, no? Voglio dire, perché queste cose i politici invece le girano dove ritengono addirittura un vizio di forma meno importante. Sì, però Giuseppe, lei in linea di massima ha ragione, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, eccetera, però non bisogna nemmeno esagerare. L'interesse che c'è in una causa, diciamo, privata tra singoli è diverso da un interesse generale che può essere quello del voto, eh. Le due cose sono diverse. Poi io sono d'accordo con lei in linea di massima che per carità i termini sono i termini e vanno rispettati, però non è proprio la stessa cosa. Io sono d'accordo affinché le liste vengano ammesse, perché diciamo così, la sostanza debba prevalere sulla forma, no? Voglio dire, perché è giusto che sia così, però a livello di cittadino mi sento un attimino buggerato. Ho 17 anni che perché aspetto si io... sente? Perché, perché si sente buggerato? Perché sento i politici che questo aspetto per loro è differente a secondo della posizione in cui sono. Se io sono libero cittadino vale di più il valore di un avvocato che riesce per una virgola messa in una posizione sbagliata a vincere delle cause importantissime. Sì, lei torna di nuovo su questo argomento delle cause importantissime. Va sì. Benissimo, io sono due cose diverse però. Cioè, sì. Sono due cose un po' diverse. Cioè, l'interesse privato in una causa e l'interesse, diciamo, che hanno magari 20.000 elettori, 30.000 elettori a votare. Poi io sono tra quelli che sostiene che non si devono fare ricorsi, che bisogna essere di fronte a quell'ufficio quando bisognava esserci, eccetera, eccetera, che è sbagliato fare il decreto, però insomma, adesso non esageriamo, eh. Sì, no, sono d'accordo con lei, ma io volevo puntualizzare questo aspetto perché i politici devono anche tenere conto che la magistratura deve essere in qualche modo messa in condizione di lavorare bene, i magistrati devono pagare se sbagliano anche loro. Cioè, mi scusi, sto divagando. Un attimo, lista PDL a Roma non ammessa. È arrivato adesso un flash dell'ANSA per l'ennesimo ricorso presentato, eccetera, eccetera. Lista PDL a Roma non ammessa. Quindi stanno questo muro contro muro, questa palla che va su. Ma qui non c'è nessun muro contro muro, non è stata ammessa la lista del PDL secondo una procedura che è quella normale. Sì, ma poi pubblicità. Ricorsi contro ricorsi, cioè tutte cose qui che continuano. Grazie. Eccoci, 2012 800 24 00 24. Dunque, la Corte di Appello ha respinto il ricorso sulla lista del PDL. La Corte d'Appello, io non riesco nemmeno più a capire quale sia il ricorso. Sentiamo Sky. Come ha detto anche il TAR ha detto, vi ricordo, ha bocciato la richiesta del PDL di rimettere la lista, perché ha detto qui, una delle motivazioni è che qui in Regione Lazio c'è già una legge regionale e quindi non era valido il decreto messo in campo dal governo interpretativo. Noi non sappiamo se anche questa è stata una delle motivazioni addotte qui dal Tribunale per rigettare la seconda presentazione della lista, oppure questa era la seconda presentazione della lista, cioè la lista ex novo presentata entro le 24 ore successive al decreto, insomma come era previsto dal decreto, cioè quella che doveva essere sicuramente ammessa. Ieri uno dei coordinatori del PDL, Verdini, diceva sicuramente oggi verrà ammessa dalla Corte d'Appello, domani verrà ammessa dalla Corte d'Appello, invece nisba. Evidentemente il motivo è sempre lo stesso, cioè che qui c'è una legge regionale e il decreto non vale. Comunque la Corte d'Appello ha respinto la lista del PDL. La lista del PDL non si può presentare. Questa è la sostanza. Ancora ascoltatori all'800 24 0024. Sergio Dall'Aquila, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, dottor Crociani. Dica. Io volevo proporre una riflessione su come è cambiato il sistema democratico in Italia. Noi come avevamo potere costituzionale, costituito dal Parlamento, cioè potere legislativo, mi scusi. Noi avevamo un Parlamento eletto, i cui deputati o senatori erano eletti dal popolo, un potere giudiziario e un potere esecutivo. Questo consentiva a ogni eletto una certa autonomia. Oggi, con la modifica, io non faccio un discorso né di destra né di sinistra. La modifica di che? Con il sistema... La modifica, diciamo, con cui oggi vengono proposti i candidati al popolo, Quindi non c'è una nostra libertà di andare a votare Tizio, Caio o Sempronio. Quindi, no, mi scusi, lei si sta riferendo alla legge elettorale nazionale per il Parlamento? Sì, certo. Perché certo, in regione... Certo. No, votare... è un discorso generale, da cui poi vorrei che si capisse come poi cambiano tanti atteggiamenti. Ci sono le liste bloccate, questo però lo sappiamo da qualche anno, Sergio. Perfetto. Dov'è questo la novità? Cosa porta? A un Parlamento dove le leggi vengono approvate da una maggioranza, ma questa maggioranza praticamente viene decisa dai leader. Quindi chi ha in mano il potere esecutivo ha automaticamente in mano anche il potere legislativo. Vabbè, adesso questa qua, Sergio, non sono d'accordo. Pronto? Sì. No, non sono d'accordo, Sergio, mi perdoni. Cioè, il potere legislativo e il potere esecutivo non è che sono determinati da com'è la legge elettorale. La ringrazio. Eccoci qua della serie Missioni Impossibili all'800 24 00 24, che è sempre il numero per chiamarci. Andiamo in Basilicata, dove troviamo Florenzo Doino. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Mi sente poco bene. Noi la sentiamo benissimo. Lei come si chiama però di cognome? Doino o Doino? Doino, io mi chiamo Florenzo Doino. Florenzo sono Doino. Il candidato presidente del Partito Comunista dei Lavoratori alle elezioni regionali. Ha detto tutto lei, io lo volevo dire io, invece l'ha detto lei. Scusa. Senta, no, per carità, non c'è problema, anzi mi ha anticipato e mi ha tolto un peso. Uno deve sempre annunciare candidato in Basilicata per il Partito Comunista dei Lavoratori. Però di partiti comunisti o che si rifanno al comunismo ce ne sono tanti. Voi dove vi collocate, caro Doino? Ce ne siano molti. Allora, facciamo un po', scusi un attimo Doino, cerchiamo di fare ordine in questa galassia infinita dei partiti che più o meno erano tutti dentro, dei movimenti che erano tutti dentro Rifondazione Comunista, diciamo, no? Allora abbiamo sinistra, partiamo dalla destra, che c'è? Dalla destra della sinistra? Ma che c'è? Sinistra, Ecologia e Libertà, no? Apri. No, c'è Sinistra. Ma dove Libertà, si trova, Doino? Apri. Dove stai, con chi sta parlando? Sinistra Libertà abbia rinunciato già da quando era dentro di Fondazione Comunista a una prospettiva di trasformazione socialista della società. Sì, certo. Ormai credo perché c'era anche la prospettiva di rifondazione socialista della società prima? Sì. Noi no, voi noi dico. Crediamo che questa società vada cambiata. No, ma questo l'ho capito, Doino. D'altra parte siete il Partito Comunista dei Lavoratori. Però io volevo far capire agli ascoltatori come è organizzata questa sinistra, diciamo, ex comunista. Abbiamo Sinistra Ecologia e Libertà, che è su posizioni di alleanza con il Partito Democratico, no? Più o meno moderate, no? Voi come li considerate? Dei borghesi, i padroni, come li considerate? Sì, cioè Sinistra Libertà che appunto ha rinunciato a una prospettiva di trasformazione socialista. La stessa Rifondazione Comunista credo che sia con tutte le sue contraddizioni. Ma dove si... Scusi un attimo, Doino, scusi se la interrompo. Ma dove si trova? Segue il centro-sinistra e quindi non mi sente. Gli interessi della borghesia italiana. Certo, la borghesia italiana. Si perdoni questa affermazione, ma è così. Noi perdoniamo, per carità. Siamo terreno, qui per perdonare. Sul terreno del sottoriformismo. Sottoriformismo. Scusi. Sono i militanti. No, Doino, scusi un attimo. Scusi, Doino, si fermi un attimo. Urge una spiegazione. Cos'è il sottoriformismo? Ma non è neanche il buon riformismo. Certo. È l'accontentarsi di partecipare alla gestione del capitalismo. Nell'illusione di strappare qualche conquista per il movimento dei lavoratori. Nell'illusione di strappare qualche conquista per il movimento dei lavoratori. nei fatti poi non si realizza. E questo come si chiama? Lei lo chiama sottoriformismo? Sottoriformismo. Scusi, riformismo, la differenza tra riformismo è realizzabile e sotto... Sì. Quando le condizioni dello sviluppo capitalistico lo consentono. E certo, la differenza... In Italia è stata una stagione riformista, ma non è questa. Ma la differenza tra riformismo e sottoriformismo qual è? Solo il sotto? Cioè uno, il sottoriformismo è sotto riformismo? È sotto riformismo? La caricatura del riformismo. Del riformismo. E chi... l'operato dei partiti della sinistra all'interno del governo Prodi, per esempio. Ho capito. E dunque, Rifondazione Comunista è un partito sotto, era un partito sottoriformista. Sì. E oggi chi sono i sottoriformisti? Oggi chi sono i sottoriformisti? Com'è? Oggi chi sono i sottoriformisti? Ma sì, appunto, la dirigente di Fondazione Comunista. Cioè la Federazione di Sinistra, come si chiama adesso? Federazione di Sinistra. Sì, la Federazione di Sinistra, appunto, in modo molto assurdo partecipano alle missioni militari mentre dicono di essere contrari, sono contro la precarietà del lavoro e votano quando partecipano ai governi. Ho capito, poi adesso però, questo l'ho capito. Penso che non siano neanche sottoriformisti. E che sono, se non sono sottoriformisti, che sono allora? Com'è? Se non sono sottoriformisti, che sono, Doino? Ma sono una contraddizione, una grossa contraddizione. I dirigenti sono dei parolai e fondamentalmente delle appendici del Partito Democratico. Altra cosa sono i militanti. Altra cosa sono i militanti. E i dirigenti locali. Ho capito. Della Federazione di Sinistra, che sono invece persone che... Senta, però Doino, ho capito la differenza tra di... Ho capito, la di... ancora devono... Da questo coacervo di dirigenti interessati alla conservazione del potere. Cioè ancora si devono rendere conto di essere sottoriformisti, dice lei? Com'è? Ancora si devono rendere conto di essere sottoriformisti? No, se ne rendono conto, lo dicono anche a noi, aspettano tempi diversi, hanno tempi diversi per realizzare la scelta dell'uscita da questi partiti, per cui, che sono dannosi, certo, per alla classe lavoratrice. E certo, invece il Partito Comunista... Sono gli interessi dei lavoratori con quelli della borghesia, del capitalismo. E beh, ma non c'è dubbio. Per cui il Partito Comunista dei Lavoratori è destinato a intercettare questi delusi dei sottoriformisti. Sì. A ma soprattutto ad intercettare i lavoratori. I lavoratori, certo. I lavoratori... che non si riconoscono. Ma ci sono un sacco di lavoratori in Italia. Ho capito, Doino, ma lo sa che in Italia ci sono un sacco di lavoratori? Ma in Italia ci sono tanti lavoratori. Tanti. Ovviamente non esiste più il lavoratore classico, però io le posso dire che attraverso la precarizzazione del lavoro ci sono decine e decine di nuove figure, certo, che subiscono il più pesante sfruttamento e non c'è dubbio. E dal loro lavoro il capitale realizza i massimi profitti. Senta, Doino, allora noi abbiamo detto, cioè Sinistra, Ecologia e Libertà, la Federazione di Sinistra, i sottoriformisti, la Rifondazione, eccetera, eccetera. Poi sempre a sinistra c'è, mi sembra, Rizzo, no? Sì, cioè, ma devo dire la verità, di Rizzo conosco poco. Che era un... Lì in Basilicata, Rizzo non è popolare. Del Partito dei Comunisti Italiani, ha partecipato fedelmente... come tutti al governo Prodi, però voglio dire, Doino, delle scelte scellerate anti lavoratrici e soprattutto in politica interna. Però capito, non è che tutti i mali del mondo, Doino, non è che tutti i mali del mondo sono concentrati sul governo Prodi adesso. Quei due anni del governo Prodi, lei concentra tutto il male possibile immaginabile. No, assolutamente non. Lei dice quelli hanno partecipato al governo. No, io lei dice quelli. Dei fatti, il governo Prodi, che per alcuni lavoratori, per la maggioranza dei lavoratori, poteva essere una speranza. Sì. Una speranza si è rivelato invece un governo. Ma c'era realizzare l'attacco maggiore alle condizioni di vita e di lavoro. Nel governo Prodi c'era Lamberto Dini, che insomma certo non è uno che si può dire che ha la vostra ispirazione, persone, insomma, no. Sono delle politiche che si realizzano. Vabbè. Senta un attimo, Doino, si fermi un attimo. Lei è candidato del Partito Comunista dei Lavoratori, che è il partito di Ferrando, no? Sì. Ma c'è un partito più comunista, più a sinistra di voi? Chi è il partito più a... Anche a me non è che mi interessi. No, non le interessa stabilire chi è più a sinistra. No. Noi per la verità guardiamo ad un programma generale, ad un programma particolare per quanto riguarda le nostre regioni. No, ho capito, però nella galassia che c'è a sinistra, abbiamo detto, ci sono tutte queste formazioni, poi ci sono le altre formazioni minori, ci sono i trotskisti, per esempio, ne abbiamo intervistato uno l'altro giorno. Voi come vi collocate? In che variante del comunismo vi collocate, essendo il Partito Comunista dei Lavoratori? Noi, per padre dice alla corrente della ricostruzione della Quarta Internazionale. Ah, ho capito. La ricostruzione della Quarta Internazionale. Sì, sì, sì. E fa riferimento al trotskismo. Anche voi trotskisti? Sì, sì, sì. Ah, non avevo capito sta cosa. Cioè, il Partito Comunista dei Lavoratori è il partito che si rifà alla Quarta Internazionale. Sì. Ed è di ispirazione trotskista. Sì. Io non esame che poi sono compagni che possono tranquillamente avere punti di vista. Vedi? Ma questo è classico nel movimento operaio internazionale. Assolutamente, per carità, ma io non lo sapevo, non sono esperto di queste cose. Senta, Doino, vabbè, lei quanti sono i candidati in Basilicata? I candidati presidenti sono 5. Sono 5, voi arrivate ultimi, diciamo, no? No. No. No, non arriviamo ultimi. Penultimi. Siamo stati presenti anche alle precedenti elezioni provinciali. Sì. Abbiamo i nostri consensi. Beh, avete preso lo 0,42, siete arrivati ultimi, sì, appunto. Sì, sì, sì. 938 voti. Sì, sì, perfetto, perfetto. Giusto? Perfetto. Pensiamo di prenderne molti di più. Molti di più quanti? Vabbè, certo, c'è anche l'altra, c'è anche Matera, non c'è solo Potenza, diciamo, no? Sì, sì, sì. No, no, a Matera non siamo presenti, purtroppo. Solo a Potenza siete presenti? Sì, perché questa legge è vessatoria. Vessatoria. Sulla raccolta delle firme, sì. Sì. Tutte queste storie qua. Voi siete a posto da questo punto? Voi siete a posto? Voi trotskisti siete a posto da questo punto di vista, la presentazione delle firme? Le nostre liste erano presenti, erano pronte dal momento in cui si potevano accogliere. Per cui il 27 mattina voi eravate lì, fermi, immobili, dentro gli uffici. Immobili, con tutto pronto, tutto regolare. I nomi, nessun litigio sui nomi. Assolutamente. Vabbè, tanto anche, perché... anche se ci fossero stati litigi, tanto diciamo la verità, non credo che piglierete... Ma no, perché i candidati del Partito Comunista Italiano sono consapevoli che... la tornata elettorale non è una tornata fondamentale per il certo. Movimento dei lavoratori. E no, e cos'è fondamentale? Cos'è fondamentale al invece? Al nostro partito dei lavoratori per ma invece cos'è fondamentale? Meglio una prospettiva certo. di trasformazione della nostra e cos'è della nostra fondamentale allora? Mi scusi, cos'è fondamentale? Se non sono fondamentali le elezioni, non penserà mica che ci potrà essere... La costruzione di un grande movimento. Ho capito, ma non ci potrà essere la rivoluzione come in bei tempi. In questo momento... No? In questo momento cacci questo governo razzista e xenofobo. Sì, ma lei mi fa Di Pietro, è come Di Pietro, stesse parole di Di Pietro. No, non c'entra niente Di Pietro. Beh, è uguale, le stesse parole, piduista, razzista, ma no, fascista, Pietro può xenofobo. Può dire quello che gli pare, può dire quello che gli pare. Contro questo governo razzista e xenofobo. Beh, aggiunga anche piduista e fascista, perché no? Ma no, non sono così banale. No, perché... Piduista può esserlo. Ma sicuramente un governo razzista, xenofobo e con politiche pesantemente antipopolari. Senta una cosa, al servizio dei poteri. Doino, ho un'altra domanda fondamentale. Qui siamo sulla radio di Confindustria, se non mi tratti male la Confindustria, se no mi fa cacciare. Ma tranquillamente. Perché siamo calmi. Allora, 20, 29 e 30. Ho altre due domande per lei, però c'è la borsa, mi scuserà, ma voi trotskisti magari non giocate molto in borsa, oppure giocate, non lo dite, ma abbiamo queste notiziole che riguardano i mercati finanziari. Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto ci è fiorito. Che regalo che le ho fatto, caro Doino! Bene, apprezzavo. Apprezzava. Senta, ma lei quanti anni ha, Doino? 51. Florenzo Doino, candidato in Basilicata per il Partito Comunista dei Lavoratori. Senta, caro Doino, mi chiedeva qualcuno, ma lei che lavoro fa? Dato che è dei lavoratori, il Partito Comunista dei Lavoratori. Il medico. Sì. Per cui non è proprio un proletario, diciamo, no? No, invece lo sono. Le può sembrare strano, ma lo sono. Beh, allora è un medico precario. Così, come un medico precario. Lo sa perché lo sono? Perché? Perché oggi in Basilicata come in Italia la salute è utilizzata per produrre profitti. Profitti. Chi presta la propria opera per procacciare profitti agli altri, ai capitalisti della salute e del farmaco, è un proletario. Sì. Sarà un proletario pagato meglio degli altri, ma sono un proletario. Un proletario. Sì. Vabbè, un infermiere, per esempio. Lavora e guadagna bene. Vabbè, quelli sono i proletari. È un proletario perché sul suo lavoro, con il suo lavoro, c'è l'imprenditore della salute che guadagna fior di milioni di euro. E vabbè, ma esistono, diciamo, nel mondo moderno così gli imprenditori e i lavoratori, diciamo, no? E gli operai. Lei vuole ribaltare questa cosa, Dovino? No, non ribalto nulla io. Un prestatore d'opera, chi produce profitti sì. per un padrone, sì. come può essere, può sembrare strano, anche un medico, sì. soprattutto un infermiere, sì. è un lavoratore. Un lavoratore, ma io, per carità, non volevo mettere in dubbio che lei sia un lavoratore, Dovino. No, per carità. Però è bene, cioè, beh, è bene chiarire. Io non ho ancora capito questa cosa. Non ho ancora capito questa cosa del sottoriformismo. Ce l'ho qui in testa. Il sottoriformismo. Il sottoriformismo. Io lo posso. Me lo dica molto brevemente, ma cerchi di spiegarmelo. Il sottoriformismo. Cioè, lei critica quelli che sono sottoriformisti. Lei dovrebbe criticare da trotskista anche i riformisti, in realtà. Certamente. Lei critica i riformisti e i sottoriformisti. È la parodia del riformismo. Il riformismo in alcune epoche storiche è una cosa seria. Lei immagini per esempio al PC sì. che grazie alle sue lotte ha realizzato la riforma sanitaria. Ma però mi scusi, i riformisti, per esempio nel partito comunista il riformista era Napolitano, per esempio, era considerato un riformista. Beh, era il partito comunista. Era sì. un partito riformista, un partito serio, con milioni di operai, sì. con una linea politica chiara, sì. e ha realizzato, grazie alle lotte mm-hmm. del movimento operaio, dei lavoratori, sì. ad esempio la riforma sanitaria. Ma sono finiti quei tempi, però, Edoino. È stato ribadito un principio. No, ma ho capito, ma sono finiti. Della prevenzione. Ho capito, Edoino, sono finiti, quei tempi sono finiti. Quei tempi sono finiti. Oggi chi annaspa e chi ritiene di poter realizzare quella stagione, sì, quelle conquiste, sì. rimanendo, lasciando immutate le condizioni, ho capito. I rapporti di produzione sociale. Va bene, Dovino, grazie. Auguri. Dovino, che dobbiamo fare? Il monologo sulla radio di Confindustria adesso va benissimo. No, sto scherzando. Allora, Dovino, la ringrazio, auguri per tutto. Grazie, io lei. Spero che supererete la soglia dei 900 voti. Ma questo lo speriamo anche noi. Speriamo di suscitare un grande movimento di massa. Vabbè, grazie, buona serata. Va bene, compagni, avanti il gran partito. Noi siamo dei lavoratori. TG2, titoli. Dopo la sentenza del TAR del Lazio, anche l'ufficio elettorale non ammette la lista PDL a Roma e provincia. La Polverini da Berlusconi, rinvio del voto, divisi PD e radicali. Si è ucciso Pietro Vanacore, coinvolto poi prosciolto nell'omicidio di Simonetta Cesaroni. Ha lasciato scritto: 20 anni di sospetti e sofferenze ti portano al suicidio. Maltempo in tutta Italia, al centro-nord neve anche in pianura, pioggia al sud. A Trieste Bora 120 km orari, un miglioramento previsto solo per giovedì. Dopo sigarette, cibo, spazzatura, negli Stati Uniti finiscono nel mirino anche le bollicine. A New York in arrivo una tassa sulle bevande gassate, l'accusa: fanno ingrassare troppo. Senza pace la nazionale inglese allenata da Fabio Capello, dopo le storie di infedeltà coniugali, adesso lo spionaggio. Intercettate telefonate dei giocatori prima della partita con l'Egitto. Sentite cosa è accaduto. Il presentatore della lista del PDL di Roma, una volta ricevuta la decisione dell'ufficio elettorale circoscrizione del Lazio, hanno lasciato il tribunale prima che la notizia della non ammissione trapelasse, senza riferire l'esito, inseguiti dai giornalisti fino a Piazzale Clodio, protetti da un cordone di forze dell'ordine. Naturalmente, senza parlare, ma questo ormai è normale, ci sarà stato pure il nostro caro Alfredo Milioni all'interno di questo drappello. Serena da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Prego. Dunque, io mi chiamavo un po' per intervenire a sostegno dell'interlocutore che ha invitato in trasmissione poco prima, perché penso che il modo in cui l'ha trattato, fra il derisorio e la ridicolizzazione, mi è sembrato veramente brutto. Cioè, questo denota anche una, secondo me, almeno dal mio punto di vista, una certa ignoranza per quella che è una tradizione ideologica, culturale e anche di analisi economica che ha 2 secoli e anche di più, che è quella del marxista, insomma, mi sembra. Senna, perché le, perché lei la butta così sul serio, insomma? Ah, vede, la butto così sul serio perché le cose che diceva il signore, anche se mi meraviglio che si sia prestato poi ad essere ridicolizzato in questo modo, denota anche una poca serietà, secondo me, generale di tutta la conversazione, però gli argomenti di cui parlava erano molto molto seri e che si ha una conoscenza, come dire, un po' più approfondita probabilmente di tutta quella tradizione culturale ideologica, sentirne parlare in questo modo è veramente fastidioso, direi. Serena, ma qui, questa qui è la radio di Confindustria, ma lei, ma non è questione, dire, non è questione di radio di Confindustria, mondo dove ci sono le categorie degli imprenditori e dei lavoratori, insomma, no. Via, è un po' un insulto a secoli di storia del pensiero filosofico questo. Ma infatti, infatti Serena, questo qua non è un convegno filosofico, ma è una trasmissione radiofonica, se lei non l'ha capito io no, non posso certo, farci però niente, volevo capire se era una trasmissione politica oppure una trasmissione cabarettistica. Ecco, diciamo che è una via di mezzo, una via di mezzo, mannaggia, Serena, lei... Io l'ascoltavo perché pensavo che fosse una trasmissione politica, non una trasmissione ma la politica, sa, la politica ci offre anche degli spunti cabarettistici straordinari. Lo so, però vede, il problema è questo, è il fatto che io non credo assolutamente che le cose che sosteneva quel signore fossero delle cose cabarettistiche. E va bene, va benissimo, lei ha tutto il diritto... Del mercato del lavoro, quando parla di forme del mercato del lavoro, quando parla di sottoriformismo, che poi vabbè non è niente di più niente di meno che il riformismo fatto da chi ha abbandonato altre strade, naturalmente diciamo dice delle cose molto serie, sono le cose per cui ci ritroviamo tra l'altro nella crisi economica strutturale, non congiunturale, in cui ci troviamo. Sì, Serena, per carità, questi sono argomenti molto seri, eccetera, non è la sede per parlare in maniera approfondita di queste cose. Le vorrei far notare che un rappresentante del Partito Comunista dei Lavoratori, seppur in maniera certamente ironica e forse un po' trasgressiva, se vuole, per quello che riguarda i suoi gusti, naturalmente ha parlato nella radio di Confindustria per una ventina di minuti circa. E sfido lei o altri simpatizzanti di movimenti di questo tipo, non so se lei sia simpatizzante del Partito Comunista dei Lavoratori, non credo, non mi interessa, a trovare una situazione, diciamo, più o meno simile. Forse lei dice è meglio non andarci quando, quando... Non so se mi segue nel discorso che le sto facendo. Lei può invitare chi vuole, se poi lo invita però per sbeffeggiarlo, chiaramente è una cosa diversa, capisci? Guardi Serena, credo che se lei Serena, esistono delle rubriche che sono dissacranti e diciamo ironiche solo per come si presentano. Questa rubrica si chiama Le missioni impossibili. Noi invitiamo delle persone perché è l'unico modo, se vuole, per parlare di politica in una situazione in cui non possiamo invitare molta gente perché c'è la par condicio, utilizziamo questo metodo che è quello un po' dell'ironia. Poi, certo, ma allora in quel caso viene fatta a 360 gradi, chiunque venga invitato in trasmissione viene sottoposto. E infatti più o meno, è così. Crisani, non sono proprio d'accordo. Lei non è d'accordo perché non ascolta, bene, ma è così, questa rubrica è fatta in maniera... esattamente nel modo in cui lei ha... Quale? La zanzara? Dice? No, ma in generale la zanzara, ma poi comunque in particolare questa rubrica sulle missioni impossibili, cioè i candidati minori dei vari schieramenti, è fatta proprio così. Capisco, ma non condivide, ho capito, ma cosa vuole che dica io? Parlavo in particolare comunque della sua trasmissione ora, non di un'altra. Vabbè, Serena, non vogliamo intavolare una discussione sulla mia trasmissione? Se vuole intavoliamo una discussione sulla mia trasmissione. La cosa è stata portata da lei su questo terreno, quello che io dicevo, che stavo sostenendo, è che pur essendo un partito di minori, io non sono una elettrice di quel partito, se vogliamo dirla. No, ma io non gliel'ho nemmeno chiesto. Non è questo, però sono sicuramente comunista, questo lo dichiaro tranquillamente, vabbè, e quindi non c'è niente di strano. Tale, quando sento parlare, le ripeto, c'è la libertà in Italia, la libertà di espressione. No, certo che c'è anche la mia libertà di sottolinearglielo, però altrimenti di che cosa parliamo? Se dovessimo parlare sempre fra persone che la pensano per fortuna parlare. Sì. Allora no. Sì, ma non ho capito. Allora, quello che sostengo io è semplicemente che mi è sembrato un po' un teatrino, ecco, scusi se glielo dico. Forse non ha capito che voleva essere un teatrino, ma non riesco a... Cioè, lei sarà pure comunista, Serena, però i comunisti un tempo erano, insomma, afferravano subito, adesso per carità, non voglio dire che lei è... Però se non ha capito che era un teatrino, è fatta apposta per essere un teatrino questa rubrica, è fatta apposta per essere un teatrino. Cosa vuole che le dica? È un teatrino. È un teatrino in cui naturalmente si affronta la politica in maniera un po' scherzosa, che è l'unico modo in cui la possiamo affrontare, soprattutto in questo periodo, secondo me. Poi alterniamo cose serie a cose meno serie. Ma io non sono d'accordo che sia l'unico modo in cui la si può affrontare. Infatti non ho detto che è l'unico modo, ho detto che ci sono delle cose affrontate in maniera un po' più seria, delle cose affrontate così, ridendo, scherzando, di fronte alle parole che vengono usate, che sono quelle, appunto, il sottoriformismo, queste cose qua. Sono cose molto serie, in realtà. Sì, serissimo, infatti. Senta, io sfido lei. Sì, però se vogliamo essere seri, ma lasciamo perdere la situazione dei lavoratori. Lei si faccia un giro per Roma, abita a Roma, e chieda per strada cosa significa sottoriformismo, e vedrà che il 99,99% delle persone non sanno nulla. Secondo me alcune persone lo afferrano, mi sembra un concetto abbastanza semplice. Semplicissimo. Credo che sia un neologismo coniato dal interlocutore di poco fa, quindi io non è che sia la sostenitrice del concetto di sottoriformismo. Vabbè, insomma, lei ha dato fastidio il fatto che io abbia un po' preso in giro questo candidato. Esatto. Sì, va bene, d'accordo, registriamo. Esatto. Grazie. Siamo qui 20:48, 800 24 00 24, volata finale per la Zanzara fino alle 21 con i vostri interventi, e riprendiamo direi da Pordenone. Diego, buonasera. Buonasera, senta, io volevo fare una piccola osservazione, una piccola domanda, magari è un'utopia, ma mi sembra che il TAR sia esista solo qua in Italia. In Europa non ci sono tribunali che hanno questa funzione qua, se non sbaglio. Ma no, sicuramente ci sono dei tribunali presso i quali si possono fare dei ricorsi amministrativi, non c'è dubbio. Ma sono un po' incerto. Le procedure italiane sono particolarmente lunghe e complicate. Adesso c'è il Consiglio di Stato e il PDL vuole ricorrere al Consiglio di Stato. Vabbè, insomma, al di là di questo. Sì, ma non solo, ma se lei pensa che il TAR, e soprattutto per esempio il TAR del Lazio, che abbia rilievo nazionale, blocchi ogni processo, ogni riforma, ogni. Adesso è esagerato questo, blocca ogni processo, ogni riforma. Certamente ha un potere enorme il TAR del Lazio in particolare. Appunto. Sì, insomma, a me sembra un po' eccessivo che la forma possa bloccare anche la sostanza spesso. Innanzitutto, cioè prima la forma e poi eventualmente la sostanza. Cioè prima la sostanza e poi la forma, dice lei. Insomma. Prima viene la sostanza o la forma? È chiaro che viene prima la sostanza, ma che poi la forma blocchi tutto e poi mi sembra un po' eccessivo. Qualche volta la forma è sostanza, però. Sì, qualche volta, ma. Ma non in questo caso? Quasi mai, io credo quasi mai. Lei dice? Non lo so, nel caso delle leggi elettorali mi sembra, o comunque di alcuni passaggi, mi sembra che però le due cose coincidano. Almeno io la vedo in questo modo. Io sono refrattario alla burocrazia, odio la burocrazia, però. La burocrazia è fatta anche di, no, di. E poi, tra l'altro, la burocrazia non è che la decidiamo io e lei. Le stesse persone che criticano la burocrazia, sentivo prima la Santanchè che diceva: non si può morire di burocrazia, la democrazia, la libertà, la rappresentanza. Le stesse persone che dicono queste cose sono quelle che avrebbero il potere di cambiarla la burocrazia, cioè di renderla meno faticosa. No, con meno passaggi, eccetera. Perché non lo fanno? Non sono comunque tutte così, cioè, forse qualcuna sì, ma qualcuna no. Ma cosa non dice lei? Che siano categorie, cioè che siano le categorie, che quelle stesse persone facciano questo lavoro. Qualcuno, no, non sì. Ho capito. Diego, io voglio dire una cosa: le stesse persone che gridano contro la burocrazia che soffoca la libertà e la democrazia sono quelle che avrebbero il potere di cambiarla questa burocrazia. Cioè le stesse persone avrebbero il potere di cambiare questa burocrazia e non lo fanno. E perché non lo fanno? Ma quello lì è un discorso più ampio, però non credo che riguardi una parte politica. Diego, no, io sono contento che lei mi bacchetti dicendo che sto facendo un discorso più ampio, però secondo me è uno dei discorsi che si possono fare. Grazie. Prego. Gianluca, provincia di Bari, andiamo veloci, così facciamo tutti gli ascoltatori che sono già in linea. Gianluca. Pronto? Sì, dica. Salve, buonasera. La chiamo precisamente da Trani, che è provincia Bat. Pure Trani, via, cancelliamo pure la provincia di Trani, oltre quella di Ferro. Tenga presente che ci sono più consiglieri provinciali che dipendenti della nuova provincia, ad un anno ormai dalle elezioni. Addirittura. Sì, ci sono più poltrone politiche che. Vabbè, questa è una battuta, non sarà così. No, davvero, è una notizia di pochi giorni fa. Perché ci sono problemi per trasferimenti dalle province di Bari, Foggia... Cioè ci sono più consiglieri provinciali che dipendenti diretti dalla provincia, roba da matti. Sì. Perché molti dei dipendenti sono in prestito dalle province di Bari e Foggia. Quelli in Italia la gente non si vuole spostare, ma non si vuole spostare manco di 30 chilometri. Tra... Assolutamente no. Tra l'altro continuano a litigare i tre capoluoghi, Barletta, Andria, Trani, per dove sistemare la prefettura, la questura, vogliono fare un po' l'universitario, gli uffici e vari, insomma, probabilmente si andrà a rivotare per un consiglio provinciale quando andrà a scadenza, che ancora non avranno. Non mi dica queste cose, mi fa venire, mi fa intristire. È veramente scandaloso. Vabbè. Comunque, la chiamavo molto semplicemente per condividere di fronte alla vicenda della mancata presentazione in tempo delle liste del PDL, del mio sconcerto di fronte all'incapacità di ammettere di aver sbagliato. Io non sono un elettore del centrodestra, ma mi sconcerta l'impossibilità di dire abbiamo sbagliato. Non siamo riusciti ad arrivare in tempo. Diciamo che in politica la cosa non è molto diffusa. Ecco, e le faccio un esempio invece diretto per averlo ascoltato dal presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, durante la sua, diciamo, comizio di apertura della campagna elettorale. Sì. Ha ammesso di aver sbagliato su vari punti in questi 5 anni e il punto principale su cui ha ammesso di aver fatto male è stata la sanità. Ha ammesso di... Vabbè, Gianluca, lei mi sta dicendo che è un simpatizzante di Vendola, le piace Vendola? Assolutamente, come la stragrande maggioranza dei pugliesi. Vabbè, andiamo, siamo calmi ancora. Ma io, Gianluca, però spazio agli altri ascoltatori, sennò altrimenti mi ruba tutto il tempo. La ringrazio, lei è molto simpatico, però devo chiudere con qualcun altro. Barbara da Prato. Sì, buonasera. Mi dica, cara signora. No, io niente, volevo fare un piccolo signora, intervento. Signora, mi scusi, ho esagerato, lei ha una voce da ragazzina. Magari, la ringrazio, ma non è esattamente una ragazzina. Vabbè, dica. Comunque, le volevo dire semplicemente questo, che io francamente non ne faccio una questione, cioè su tutta l'operazione, lista, Lazio, PDL, eccetera, eccetera, non ne faccio una, da elettore del centrodestra, non ne faccio una questione morale, di opportunità, eccetera, eccetera, ma santi Dio, un minimo di professionalità, cioè siete lì a fare un lavoro, fatelo. Lo diciamo da 3 giorni ormai. Ma soprattutto io non, a questo punto non li voterei perché... Perché lei tendenzialmente li avrebbe votati. Come? Lei tendenzialmente li avrebbe votati. Io sì, io sempre... Anche se in Toscana, diciamo... No? Anche se in Toscana sono la mosca bianca, però... Però la mancanza di professionalità... Però, ma guardi, non le do torto, Barbara. Mi metto nei panni di moltissimi elettori del centrodestra che in questi giorni ci hanno chiamato e ci dicono vabbè, ma so, questi qua sono degli incapaci. Per cui, perché dovremmo votare per degli incapaci? Va bene, abbiamo fatto tardi. Enrico da Verona, Giuseppe da Torino, ci sentiamo domani 18:30. Ciao! La Zanzara.